Viva l'Italia! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Luoghi d'Italia di Stefano Brambilla. Buongiorno e bentrovati a Luoghi d'Italia, la trasmissione di Radio 24 che vi porta dove pochi altri vi conducono, regioni, territori rimasti dietro le quinte ancora incontaminati. E incontaminati è proprio l'aggettivo giusto oggi per descrivere l'isola di cui iniziamo a parlare, un'isola dell'arcipelago delle Egadi, a largo di Trapani. Ecco come Vincenzo Consolo, celebre scrittore e saggista siciliano, parla di marittimo. Quest'isola aspra, forte, impervia. Questa granitica alta fortezza sopra il mare d'una bellezza impareggiabile, pura come un'alba del mondo. Questa roccia di caverne di luce e di smeraldo. Questa terra delle acque e delle erbe, del timo, del lauro, del mirto, delle api e del miele, degli uccelli. Profondamente si incide nel cuore, nella memoria di chi va e di chi resta. Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei marittimo la conosce più che bene. La conosco bene, ci sono state diverse volte, trovo un'isola bellissima. Marittimo è balzata agli onori delle cronache proprio questa primavera perché incredibilmente è stata avvistata, me lo dice lei, che cosa? Quale animale? Una poca monaca, non una sola, uno o due esemplari dopo tantissimi anni che non si facevano vedere in quei mari. Ed è una cosa interessante perché una ventina d'anni fa la prima foca che si affacciò fu fucilata. Mentre adesso anche grazie ai pescatori del luogo che proprio hanno filmato e riportato l'avvistamento della foca monaca se ne è venuto conoscenza. Ci dice qualcosa sul progetto del WWF che ha lavorato, sappiamo, con i pescatori di marittimo per salvaguardare l'ambiente marino? Sì, questa è stata, devo dire, la grande trovata, non arrivare con vincoli, imposizioni, ma cominciare a parlare, a trattare con questi bravissimi pescatori che hanno preso in mano la vicenda e trattano questo animale che prima era considerato un predatore, anche un competitore per la loro pesca, l'hanno considerato finalmente un richiamo anche turistico. Abbiamo lavorato, si è lavorato anche con il parroco del luogo, abbiamo ottenuto dal Ministero dell'Ambiente di garanzie perché queste persone fossero in qualche maniera gratificate anche in maniera economica, e questo fa sicuramente bene a una specie che è ridotta oggi tutto il Mediterraneo in più di 500 esemplari. Pochissimi esemplari a rischio di estinzione, e tra l'altro ricordiamo che la foca è stata avvistata qui ed è un ottimo segnale di integrità dell'isola, perché la foca monaca non va dappertutto, giusto? È un buon segnale, significa che c'è pesce, perché loro si nutrono di pesce, ci sono le grotte adatte per la loro riproduzione, e poi è il segnale anche di un atteggiamento più comprensivo e più tollerante da parte della gente del posto, soprattutto i pescatori che fino a qualche anno fa le uccidevano. Certo, Pratesi, lei che lo conosce così bene, Banettimo, ci descrive un attimo l'ambiente, perché è così bella, perché è selvaggia, che cosa si può aspettare il turista che arriva a Marittimo? Ecco, Marittimo è un'isola delle 3-4 più belle del Mediterraneo, metterei insieme a Marittimo, Palmarola e forse Capri, un'isola abbastanza, diciamo, isolata, con dei bei picchi pieni di bosco e con delle bellissime pareti e falesie, tipo faraglioni che vanno sul mare, diciamo le barrancas. Bene, roccia calcarea, naturalmente. E ci sarà una bella vegetazione di macchia mediterranea, ci sono dei resti ancora di qualche costruzione romana antica, grotte stupende e un mare naturalmente bellissimo. Quindi grandi passeggiate sulle falesie dell'isola, bei giri in barca, ovviamente ottimi bagni e poca gente. Bellissimo castello di Punta Troia, che è un castello dove fu relegato, carcerato Spaventa, l'eroe del Risorgimento, e stanno adesso restaurandolo. Sarebbe interessante poterlo adibire appunto a, diciamo, attività culturali. Ecco, Pratesi, ci si chiede, questa meraviglia è adeguatamente protetta? Beh, guardi, il fatto che sia tornata la foca monaca ha fatto sì che addirittura il presidente della commissione ambiente del Senato, il senatore D'Alì, abbia detto questo finalmente servirà per poter finalmente avere il parco delle isole Egadi. E il parco delle isole Egadi è un sogno di tanti, specialmente degli ambientalisti, anche perché bene comprenderebbe isole come Stavignana, Levanzo e naturalmente Marittimo. Certo, potrebbe essere un parco nazionale tra i più preziosi del Mediterraneo e speriamo che la foca si faccia ancora vedere, non sia stato un avvistamento isolato. Sì, stanno già facendo avvistamenti, sì, ho il gruppo Pocamonaca che è sul posto mi dà sempre notizie. Ah, quindi si rivede, non è stato una sola volta che poi è andata sui giornali? Poi... No, sono tornate, sono abbastanza frequenti gli avvistamenti. Quindi possiamo anche dire sussurrando che il turista che va a Marittimo potrebbe vedersi una foca monaca? Potrebbe. Se poi si affida ai pescatori. Loro sanno dove il bue marino va ogni giorno e notte. Fratesi, la ringraziamo per essere stato con noi, arrivederci, buona giornata. Grazie a voi. Era il coro delle Egadi, un coro di Trapani in un brano tratto da un LP degli anni Ottanta che si chiama Ventu di Mattanza. E di Mattanza andiamo a parlare, perché da Marittimo ci spostiamo all'isola più grande delle Egadi, la più turistica, la più conosciuta, ovvero Favignana. E a Favignana c'è un'antica tonnara dove si praticava la mattanza dei tonni. Rita Barracco Platamone, buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere qui con noi. Rita Barracco Platamone è il capo delegazione del FAI, Fondo Ambiente Italiano di Trapani, e ci dice che cos'è una mattanza, prima di tutto, prima di cominciare a parlare della mattanza di Favignana? La mattanza è la pesca dei tonni, sintetizza proprio il lavoro dei tonnaroti che inizia giù d'aprile, quando vengono poste in mare tante reti che possono raggiungere la lunghezza di 4-5 km e servono a formare varie stanze. Data la loro disposizione, inducono i tonni ad addentrarsi sempre di più nelle maglie interne fino ad arrivare alla cosiddetta camera della morte. Una pratica che era ed è ancora per certi versi diffusa in gran parte del Mediterraneo, ma soprattutto nel nostro sud, in Sardegna e in Sicilia. Proprio a Favignana c'è una tonnara, credo si possa dire, la più famosa, o una delle più famose del Mediterraneo, la tonnara Florio, giusto? Sì, esatto. Il complesso infatti dello stabilimento Florio risale alla fine dell'Ottocento ed era considerato uno tra il più moderno stabilimento industriale per la lavorazione e la conservazione del tonno, addirittura di tutto il Mediterraneo. Ma in realtà la tonnara di Favignana, come attività soltanto di pesca, era già in voga a partire dal XVII secolo, quindi pensi un po'. Perché parliamo proprio di questa tonnara? Perché innanzitutto è un bellissimo complesso di quella che oggi viene chiamata archeologia industriale, giusto si può dire? Sì, infatti i Florio fin dal 1874 aggiunsero alle loro già numerose attività imprenditoriali, perché loro già si occupavano di vino di Marsala, anche l'industria della conservazione del tonno, dapprima fatto sotto sale, poi anche sott'olio nelle moderne scatole di latta con apertura a chiave che venivano prodotte anche all'interno dello stabilimento. Pensi, uno stabilimento che si estende per 32.000 metri quadrati di superficie complessiva, una piccola cittadella vera e propria dove c'erano uffici, magazzini, falegnameria, officine, spogliatoi per uomini, per donne, c'era anche una nursery, quindi pensi quanto era, perché le donne andavano lì a lavorare e portavano appresso i bambini, e poi c'era anche il ricovero per le barche, i locali per le batterie di forno, insomma proprio tutto, costruito nel materiale tipico favignanese, cioè il tufo bianco di Favignana. Il bel tufo di Favignana, sì, per sì. Cui, come dire, non passa inosservata questa cittadella, esatto, per il turista che arriva a Favignana, giusto? Anche perché non appena arriva al porto, praticamente sulla destra vede questa struttura e immediatamente si chiede ma cosa sarà mai? E allora la curiosità dei turisti ad avvicinarsi a questo luogo e a rendersi conto un po' di che cosa sia. Cosa sia, e adesso veniamo al dunque, perché la tonnara fino a qualche anno fa era lasciata abbandonata al degrado, poi è stata, giusto? Sì, sì, sì, fino agli anni 70, poi è stata acquisita al patrimonio della regione siciliana intorno agli anni 90. E il restauro che si è realizzato grazie ai fondi POR 2000-2006 della Comunità Europea si è concluso soltanto quest'anno. Non c'è stato un bando per l'affidamento e l'assessore regionale Gaetano Armao ha pensato di fare in modo che comunque il bene venisse fruito e ha interpellato le fondazioni più autorevoli in modo tale che ogni fondazione organizzasse un qualcosa cosa per tenerlo aperto e farlo fruire, far fruire questo bene. E quindi noi come FAI abbiamo pensato che non ci poteva essere cosa migliore che organizzare una giornata dell'estate del FAI della delegazione di Trapani. E quindi riapriremo a metà settembre per fare queste visite guidate in questo viaggio nel tempo. Quindi una ottima iniziativa per renderla fruibile, ma Platamone, che cosa riserva il futuro per questa Tonnara Florio? Nel senso, verrà poi, si spera, resa fruibile anche tutto l'anno, non soltanto per delle giornate spot? Sì, anche perché lì c'è una foresteria, una sala convegni, ci sono tante strutture che possono essere utilizzate per delle summer school, c'è un museo del mare già. Dico, si può fare tutto quello che si crede più opportuno fare in modo tale che questo bene possa vivere tutto l'anno. Speriamo e ce lo auguriamo tutti. Infatti. Concludiamo con un progetto che so le sta molto a cuore. Ci trasferiamo qui davanti a Trapani su una piccola isoletta, parliamo sempre di isole, ma vicino al capoluogo, la Colombaia, che ci dice qualcosa lei? Sì, vorrei dire questo, che è stato il nostro progetto, ormai il nostro progetto da 2 anni e sta arrivando qualcosa di concreto finalmente. Tutto è partito come progetto Luoghi del Cuore e siamo arrivati primi in Italia raccogliendo tantissime firme di trapanesi che hanno a cuore questo bene, che è appunto ormai da diversi anni abbandonato ed è in uno stato di degrado pazzesco. Di che cosa si tratta? È una piccola isoletta con una costruzione, con un castello che è una fortezza. Pensi che le prime strutture risalgono alle guerre puniche, quindi non le dico altro, e fino al 60 è stato adibito a carcere, adesso è abbandonato da allora, però mi creda, è una cosa spettacolare, meravigliosa, e anche lì attraverso vari passaggi, varie situazioni veramente ingarbugliate che non sto a raccontare, si è arrivati ad un contributo per la messa in sicurezza e quanto prima avremo anche lì un bellissimo restauro e una futura fruizione. Bene, quindi anche qui qualcosa funziona e ci auguriamo che anche la Colombaia si possa visitare presto. Ringraziamo Rita Baracco Platamone per essere stata con noi e le auguriamo buona giornata. Grazie. Abbiamo parlato di Favignana, abbiamo parlato di Marettimo, ricordiamo che c'è anche una terza isola delle Egadi, che è Levanzo, che è la più piccolina, la più selvaggia, forse la più lontana dalla terraferma. Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordiamo che Luoghi d'Italia torna domenica prossima alle 14:15 e poi con varie repliche durante il weekend, la prossima puntata, e a presto.